No, le gengive ci ho cuore. Un'infiammazione alle gengive. Cava. Non mi ha lasciato dormire l'altro giorno di notte. C'è un'infiammazione, non credo bene. E sto prendendo un antibiotico adesso. Speriamo che vada bene, lunedì devo andare al dentista. Cava. Ma se mi dite che venivo cava anche cacciare, non venivo stucca. E perché? Che no, perché l'altra volta mi ha tolto il latte e non c'aveva nulla, né radice, né, non era cagliato per nulla, ma l'ha tolto perché stava muovendo appena. E mi ha detto un altro dentista che si poteva recuperare. Ai. E invece chi non me l'ha cavata? No. Vedi. Queste cose non vanno bene. La dentiera, Gianni. Per il momento non ne ho bisogno, dentiera, ce ne ho quasi tutti i denti. Me ne mancano due. E poi se ci vuole la mettiamo, problemi non ce n'è. Tu me salterai. Ma io dico, qui non ci soffre di mal di niente, niente già. Non ti metti la dentiera. L'unica è, guarda, fare una bella dentatura con... io ho visto si va su YouTube per e cerchi quei video che ti fanno vedere, praticamente mettono questa specie di come si chiama, di tipo un'impronta, diciamo, no? E poi il foro lo strappano e poi mettono i cosi, le viti, no? E ti fanno i denti perfetti, siamo tuoi. Ha cazzo uno di anche 50 mila euro, ha fatto gli incidenti così. Se l'ha fatto anche un amico mio. Ha pagato il dentista e non era andato a farsi, gli ha detto cazzo sei l'unico che mi paga prima del lavoro e poi non viene a farsi. Siccome te me fa, te l'ha pagato però perché dice fare me lo devo fare. Se adesso che l'ho pagato devo per forza farmelo, no? Mi ha pagato il lavoro e poi ce l'ha fatto dopo. Adesso ce l'avrà un annetto, però un po' ha sofferto. Beh, normale. Però non è dentiere, si muove. No, ti mettono di pirre nell'osso. Non lo so, ma cazzo, 50 mila euro di unici. Non ti ha speso, non te l'ha detto. Ah? Non ti ha speso, non te l'ha detto. 27. Tutti i denti. Sì, tutta la dentiera. Sì, quelli non escono, Gli altri quattro li ha fatti, però. 27.000 euro ha speso. Ma... per lui ci voleva, perché si ha preso una piorrea e ha perso tutti. Casino i denti sono già. Aiaia. È un casino. 27.000 euro, sì, vabbè. 50 milioni, delle bicchierine, diciamo. Poca roba, ma per uno che c'ha una pasticceria industriale non sono niente, no, hanno dei guadagni esorbitanti. Oh, vabbè, che buttarli via così è fastidio. Cosa, 25 mila euro? Ma per i denti? No. Perché li ha buttati via? Li ha buttati via nel senso che se uno è sano non ha quelle spese lì, capito? Non sono buttati via perché ti rifai i denti e poi anche da anziano non ti devi fare la dentiera perché ce ne hai già tranquilli i denti. Questa per dipende dalla materia che a me che ti metto, capito? I denti sono tutto. Tutto. Casino. Iaia. E vabbè. Cazzo, forse che ti già basta. Aspetta. Che cazzo? Qua. Vaffan. Si è rotto il tazzo la ciabatta. Vaffanappo, sto salvando. Per regola, per non perdere i denti, dovresti fare la pulizia dei denti ogni 6 mesi. Ma chi ci fa a spendere tutti questi soldi? Ogni volta saranno 100 euro a spendere. Immaginati tu. Ogni 6 mesi dovresti andare a farti la pulizia dei denti. Avanti, Falco. Gappa, si conferma, è così, una barchetta di sud ci vogliono. Ma ti sei caro, ma... Cazzo, ma come tu un attimo, mi lì, dovevone, ma sa du... Pulite un tempo. 1.000 euro, quasi 1.000 euro. Puniti, metterti. Ah, ma metterti col perno? Guarda, se i punti dei due denti costano 350 euro, immaginati. I punti? Cioè i punti? I punti. Praticamente li metti a incastra i denti, no? C'è una specie di ferro che entra, va a entrare negli altri denti e si incastra. È come se avessi il dente tu, si incastra dove non hai il dente. Ah! È un casino. Troppi di là, troppi. Vabbè, chi può farlo già? Chi può farlo? Non ti fa mai un bel caro. Certo, ma tutte quelle persone che hanno denti perfetti, quelli sono... ti spendono soldi, ma gli attivi anni, capito? Vabbè, ma niente, non ne ha futtino un già, da me, ha fatto... Pensate che magna, a voi. E ancora parte lì. Ma lui, io ti dico una cosa che non è vero manco quello, perché c'è gente che tiene al proprio corpo e lo cura in maniera a volte anche esagerata, ma non fa male, si mette creme, anche gli uomini, io conosco molti uomini che usano creme per il viso, eccetera, e si tengono, e si fanno analisi, si puliscono i denti, si controlla tutto e per tutto, sono molto, ci tengono molto la propria persona, c'è gente invece che magari pur di fare altro non tiene la propria persona, la trascura. Non so, ma ci vogliono sempre soldi, torniamo lì. Stavo scrivendo una cosa, non me ne ricordo più. Ecco qua, vabbè. E così. Vabbè. E poi tra l'altro quello scheletrato che mi sono fatto io speso i soldi e non me li pongo mai. Non me ne metto perché mi dà fastidio. Che cosa ho capito? Che è, no? Lo scheletrato che mi sono fatto. Non lo metto mai perché mi dà fastidio. Preferisco stare senza i due denti piuttosto che mettere quello scheletrato, che poi il ferro è dietro i denti, non si vede, è dietro. E mi tiene e poi si incastrano. Però non mi piace portare queste cose. Lo senti che è una cosa che non è tua, a me. Se pensi che è una cosa che non è tua, che c'è in bocca, ti dà anche fastidio. Beh certo, normale. È normale. Vabbè. Dove sta andando? Aspetta già. Vabbè. È un casino. Ecco, ma quello, per esempio, prendiamo quello che perde i capelli, no? Si mette la parrucca. E poi c'era buona. Ah, ce n'era uno con noi. Quando stavo lavorando ai giornali, questa signora avrà avuto una cinquantina, 55 anni. Si vedeva che c'era la parrucca. Perché quasi al centro della testa era molto strano già, un tipo una colla apposita per attaccare la curte, no? Se non si poteva pure il barretto. Tu vuoi la barruca, si mi dia nel chiometro della barruca, capito? Ma per quanti capelli sono quelli che si curano proprio i capelli. Però non vale idea quasi di tutto, già. Vabbè, quello già è vero. Ma comunque non l'ho mai visto a cimbra. Dentiera. Mi sono visto. Mamma mia, che schifo che fa, no? L'hanno denunciato al tipo che l'ha messo su YouTube. Io mi guardo quella porta, se te conosco. E chi è che l'ha denunciato? Lui è quello che gli ha messo... Cioè, lui andava in un circolo, no? Va bene. Se abbiamo in giro tutti i gatti e sa chi è anche. L'ha ripreso sul telefonino e l'ha messo prima su YouTube. E poi gli ha messo il video su YouTube. L'ha messo su YouTube il video e qui su Facebook. E lui l'ha denunciato, sì. Chi è? Certo la denuncia, non lo può fare, no? Ma sta scherzando. Se vuoi uccidere una cosiddetta, se bagisce. Proprio sei due. Sì, che mi prende una portante, se non ci voleva disturbare. Beh, sì. Sì, dici di un culo il microfono. Molto interferente. Aspetta un attimo, ne faccio una prova all'altro. Però non mi sono così, già. Cosa volevo fare? Ma non ho capito chi sono, non lo so. Vogliono entrare, non so cosa vogliono fare. Spostati su di me. Non lo so. Tu sei 9.40 qua, perciò non ti fa nulla. Poi faremo 9.09, perciò non copri, non lo sento più qua. Scaccio a te e non lo sento più, guarda. Parla quanto vuoi. Ehi. Devo essere gli amici Pierpaolo questi qua. Quelli la mettono sempre a Pierpaolo. Devono essere loro sicuramente. Non so cosa va. Lascia un va. A me non mi disturba. Io non lo sento più già. Guarda. Oh, ma qui. Voi basta lasciare il bianco, non si sente niente. Sta sempre picchiando così. Cagarrogna. Avanti Giuseppe. Buonasera a tutti signori. Buonasera e ben sentiti. Abbiamo caricato? Cappa Giuseppe. Abbiamo intenzione di farci un giretto stasera. Tu d'accordo signore? Stasera quando? Alla luce del sole. Io penso che se facciamo quello che abbiamo in programma stanotte e stasera sicuramente non ce la faccio io già. Ah vabbè, lo facciamo stanotte allora. Un attimo solo. Se non ho sentito male ci dovrebbe essere anche il buon Luca qui, se non ho sentito male. Se ci sei Luca avanti. Cappa Giuseppe, no, mi hai sentito. Ma ci sono, ne ho ancora 10 minuti, poi faccio un bel bisognino. E ci lascio a pezzi, la settimana di lavoro. Oh ya, vado il cribbando, lo cribbendi. Oh ya ya. Che roba. Andavano mazzessi, andate a lavorare, non a lavorare, bisogna lavorare, tanto non trova niente nessuno, perciò bisogna assumarsi i soldi. E quando uno si risulta è il più tranquillo nel mondo, guarda. Ehi Cappalo, sono perfettamente d'accordo con te. Dai, salutone anche da parte mia e cordialità, e come sempre Luca. Sì, io dico questo, quando una persona si è vissuta i soldi, rientra a casa che è stanco, guarda, è in pace con sé e in pace con tutto il mondo. Pertanto io ti parlo, anch'io sono operaio, quindi non ci regala niente nessuno. D'accordo, lo sto dicendo. Comunque noi ci giriamo, rigiriamo, sono l'augurio così. A me sono piace lavorare. Tipo mentre sto facendo un muro, prima riuscivo a tenerlo di più. Capito? Sono molto pesante, perché lascio, riprendo e poi mi viene un po' in salita, ecco. quando è abituato va alla grande, però quando uno sta una settimana, due, un mese, lavora e poi fa altri ciclo fermo, sei un anno, poi riprendi, ti ammazza. Uno c'ha la schiena appessima, credimi. Ci credo Lu, perché ancora adesso vedrai poi pian pianino, una volta che riprendi le attività diciamo fisiche che si fanno normalmente quando una persona lavora, i muscoli giustamente adesso sono sollecitati, però vedrai che pian pianino poi già ti abitui, dai. Guarda, c'è problema. Guarda, ci avrei messo la firma a lavorare lì, purtroppo è per poco. Per poco, vabbè, quel poco già cerco di fare qualcosa, vai. Io dico per poco va bene, e tu amici che sono hanno iniziato a lavorare per poco e grazie a Dio sono ancora lì dentro, tu intanto un piede lì dentro ce l'hai, no? Vai pian pianino, vedrai le cose, poi strada facendo già si sistemano anche per te. Lì è un po' difficile, non un po', un bel po', c'è la gente, lascia per loro così, se no, ti fa lavorare così a salti. Vabbè, certo, già, un coso già lo potevano fare, un sacrificio anche una persona giovane che ha tutta la vita davanti, insomma, dagli anche un attimino di occupazione, non è che ti stia chiedendo il mondo. Magari, io ti sento, guarda, magari. Allora, vedi, posso respirare veramente bene, però, al momento no. Respiro, ma non bene. Ma io, come ti ho detto, l'importante è che un piedino ce l'hai messo dentro. Poi, come dice il proverbio, no? Da cosa nasce cosa, e niente, io, per l'amor di Dio, io te l'auguro di tutto cuore, perché tutti siamo qui per la pagliotta, ci mancherebbe altro. E niente, se poi tu ti trovi bene, riguarda, io sarei ancora più contento di te, Lu, se riuscissi proprio a metterci un chiodo ben fisso lì dentro, ci mancherebbe altro, perché sia per lo stipendio che tutte le altre cose, anche poi soprattutto per una posizione assicurativa, mi hai capito? Perché un domani non abbiamo più le forze che abbiamo adesso che siamo giovani. Come infatti è quello, io mi sono già 35 anni, un po' di difficoltà. Vedi un po', è un casino, lavoro non ce n'è. Ma qua guarda, le ore sono ultime, qua fai da loro all'una, uno qua è finito. Poi carichiamo il furgone e partiamo come si chiama? Lì dove hanno il deposito, ecco. Parcheggiamo, scarichiamo, aspettiamo fino alle 2 e poi ci andiamo a casa. Facciamo lavorare 5 ore, non 6. Però sono 6. Va bene Luca, va bene. E cerca qualche aggancio buono, mannaggia. E poi mi, soprattutto adesso che siamo in periodo delle elezioni, se si riesce a trovare la persona giusta, guarda, salite in una botte di ferro. Giuseppe, magari. Magari, ecco qua, ecco. Stiamo sapendo. Ecco, io morbida. Faccio questo qua l'afflizione. Capito? Sembra buono. Vabbè, mo vediamo, va. Mo vediamo. Cosa promettono? Dopo quel promesso ne ho avuto tante. Qua ho passato il conto. Ti promette. Vabbè. Faccio entrare qua, faccio entrare là. Prendi la patente, prendi quello, prendi licenza media. E poi mi ritrovo sempre, anzi peggio, e la trovo meglio prima, e avevo le patente delle licenza media. Su quello, guarda, promesse chi è che non ne ha avuto, lui? Promesse da tutte le parti, a destra, a manca, di sopra, di sotto, di fianco e di coso. Però io dico sempre questo, l'importante è partecipare. tanto prima o poi già arriva il momento buono per tutti. Anch'io sono stato da ragazzo che mi rimbalzavano da una parte all'altra, fai questo, fai quello, i piaceri che non ho fatto a destra e a sinistra, a onorevoli soprattutto, e quelli sono stati i primi che mi hanno snobbato, ma conoscendo gente così, da una cosa inizi, poi come cominci a conoscere qualche capocantiere, qualche operaio, qualcuno che ti può magari aiutare se un domani ti può sentire qualcosa, dice ma quello che stava lavorando con me mi aveva detto che, vedi, e da lì cosa, da cosa nasce cosa, vai tranquillo che già si sistemano le cose. Speriamo, speriamo che sia così. E molte volte tutti dicono così, però muovi. Non è così, caro Giuseppe. Ragazzi, vediamo un po', va. Io cerco di dare, dare il meglio, perché qua ci vuole la vedova a lavorare. Una volta che ho lavorato, stavo pagando, qua ci sono di lavorare, perché sennò è un casino. Quando piove, se piove di notte, ce lo do lo stesso io. Beh, la presenza la devi fare. E poi io dico questo, come hai detto tu, no, ti pagano, magari sono anche puntuali pagando, no, però devi lavorare, certo, ma deve essere così, perché le persone che vanno a lavorare, no, e fanno finta di lavorare, prendono lo stipendio, cazzo, quelli sono parassiti, quelli stanno succhiando il sangue da noi. Infatti, vabbè, comunque, vediamo un po'. Non capisco perché mi si chiama sto cacchio di programma. Non l'ho capito. Vabbè, ora ho posto i tuoi Gianni, Gianni. Thank you. signori, da questa parte Giuseppe, K. Buonasera Giuseppe. Bene. Insomma, non molto, eh. Come mai? Mi ha messo dall'ospedale, sono uscito. Ma, e cos'è successo? Si è spezzata una delle tavole che reggeva una parte che era sotto la catasta delle bombe, mi ricordo, sta tutta la catasta di bombe addosso. E non era buona, e niente ti sei fatto tu? Ma dice che le fratture non ce ne sono, però sono tutto pestato, le gambe, la schiena. Cazzo, ogni volta vi devo una nuova, cazzo, ma è bu. Cazzo di ora, bu. Tutto pesto, sono tutto di voi. E come mai non mi avete chiamato stamattina? Come non ho chiamato? Antonio poteva chiamarmi, mi sarei scappato io, tanto io il sabato sono libero, se ti serviva qualcosa per papà. No, cosa mi serviva? I soccorsi già ce li avevo vicini. Oh, mannaggia cazzo, ma quando mai però? È arrivata uno quasi, a altezza c'ho il collo che, non so se ho due o se ho uno, è arrivato da quell'altezza. Cazzo, figurati tu. Cazzo, il proprio che doveva mandare a masticare, mamma. Io. No, c'è il cammino, E la bocca riesce a muoverla? Se sto parlando, già ci riesco a muoverla. Cappa di positivo, dai, l'importante è che sia tutto a posto per la. Insomma, andiamo bene adesso, dai. Com'è successo questo? Quando l'hai lasciato a me? Era l'ora. Porca la miseria, porca. No, ci voleva per iniziare per il mese, siccome non abbiamo iniziato ancora bene. Porca la miseria, guarda, annaccia la marina. Ehi, guarda, quando comincia a girare male, noi ne abbiamo voglia, mi ho lasciato tranquillo, sereno, fiavo. Naccia, guarda che... E un attimo, E cappa, e un attimo sì. Porca, c'è la desiderio. Ma che ci vogliamo fare? Comunque tutto bene, Pierpaolo, eh? Già è tutto bene, eh? Anche siamo qua per raccontarlo, va bene. Sì, ebbene. L'importante è quello che sei lì a raccontarlo. Caparoggio, riprendi Giuseppe, mannaggia la marina. Ehi, cappa di positivo. Ogni tanto qualche sorpresa ci vuole, mannaggia. E giustamente sempre a fine settimana, porca miseria. Io non riesco a capire che in che vista stiamo andando noi. È vero, Che miseria. Ma, mannaggia, cavolo, ma è vero che ce l'abbiamo sotto i piedi, ma cavolo. Che non so neanche, ho potuto scappare perché mi ha stretto contro il muro. Pianta, oltre il danno la beffa, mannaggia la marina. E io, quando vi ho lasciato, che era mezzogiorno e mezzo, ho detto, ma tutto a posto, tutto tranquillo, ci risentiamo alle 2:30, mannaggia. E purtroppo, zio, quando neanche te l'aspetti, cavolo, Cava. Il doppio rum si è sentito? Sì, poc'anzi l'ho sentito, poi, sarà dormito. Cappa di positivo, adesso vediamo un attimino se riusciamo a rintracciare anche lui, mannaggia. Oh signore benedetto. Cavolinde, cavoli, oiuia. Ma, porca miseria, meno male che, cavolo, tutto sommato è andata bene, dai. Vabbè. È stato anche parecchio l'anno comunque. Beh, senz'altro l'ha fatto, perché senz'altro il danno l'ha fatto. La fortuna tua che te la sei scampata lì, quell'attimo lì, deve essere pazzesco. Diciamo che è andata bene, dai, ha buttato giù il muro e l'ha buttato addosso a due macchine, che ha spaccato due macchine. Mamma mia, che... vabbè, le macchine già... Le macchine se ne fanno per pa, i cristiani che non fanno. Cappa di positivo, ecco. Noi se non potevamo fare niente per evitarlo, si è spaccata la sola tavola, un tavolone da 10, si è spaccato la sola, non l'ho neanche toccato io, e quindi non è neanche colpa mia. Ci mancherebbe altro che fosse anche colpa tua, boh. Cavolino, riprendi Giuseppe. Cappa, ma come mai queste tavole che tengono queste cappastre di bomboli per pappa? C'è un ripiano, no? C'è un ripiano che le si fa a terra e fanno tipo piramide, si è spezzata quella e ha crollato tutto. Quindi deve essere stata una bella valanga di bomboli allora. Ma non più accorgi, penso una quarantina. Solo, caspita, non danno un caso. Penso, non io non le ho contate. Poi la tavola a 10 centimetri, che non mica dura mia a rompersi. Non è che la marcia la tavola, no? No, ma è stata sostituita anche da poco. Cavolino. Come si fa, cavolo, una tavola nuova a spaccarsi così? 10 centimetri, poi, non stai parlando di 5, ma di 10. Cavolo, boh. Sotto c'erano anche... Adesso non mi ricordo, mi pare, tra una e l'altra, mi pare che c'era una ventina di traversine che tenevano, un traversine adesso non mi ricordo quanto sono, ma quelle traversine quadrate. E che cavolo, mannaggia, riprendi Giuseppe, cavolino. E cosa vogliamo fare, mannaggia, Marina? E così, cavolo. Va bene, ci lasciamo a posto, tutto bene. L'importante è che stia bene, magari adesso non so se ti abbiano fatto iniezioni per i dolori, non so, per le pestature, questo non potrei saperlo. Dovresti vedere più avanti come... auguriamoci tutto bene. Tutto un dolore, gioco, chissà poco ma sicuro, tutto un dolore. Posso immaginare. Posso solo immaginare, guarda. Mannaggia, guarda. Tu sei? Sì, io sono qua. E Giuri, cosa ti hanno detto al pronto soccorso per Papa? Ci devo ritornare lunedì per altri accertamenti. Il cacchio, ma lunedì che fai, tu dimmi. Vabbè, perché oggi né domani posso fare, come si chiama, non me lo ricordo adesso, quella sarebbe quella specie di radiografia che vedono di più, quello, ma non me lo metto, poi scrittura posso, non me lo ricordo. Attacche? Capo. Senta, Giuseppe. Bisogna aspettare la lunedì per fare l'attacco, ma che organizzazione che abbiamo, guarda, è una cosa pazzesca. La cosa pazzesca è che prima i soldi ce li prendono in anticipo, no? E da tutto quello che ci trattengono dallo stipendio, però da voi se ricorso che deve farlo deve fare con molta calma, con molta tranquillità, da voi uno, se ne agita, esette. Giuseppe, purtroppo, così l'Italia ha funzionato sempre male e funzionerà sempre male. Da male in peggio. K di positivo, sempre peggio, qui andiamo avanti con gli anni ed è sempre peggio qua. Sempre peggio, mannaggia. È bello che i quattrini se ne prendono, capito? Le trattenute ce ne fanno, quando è il momento di bisogno, e ci fanno aspettare, aspettare e aspettare. Poi, chi è sano, chi è malato, proprio guarda, per carità, ma non ci sono parole da dire, ma. A parte quello, qualche. Le trattenute ce le fanno, ci fanno aspettare, poi se ti capita qualche necessità che hai bisogno di cure devi andare a pagare, devi pagare il ticket e con i torini, nonostante tutte le trattenute che ti fanno, quindi oia, e cura a noi. Giappa, giappa, riprendi verba. Aspetteremo, non ci sono problemi. E cappa. Il discorso è, sì, noi aspettiamo perché pazienza ne abbiamo fin troppo anche. Però la male organizzazione che abbiamo qua, guarda, si può tagliare a fette. Chi è che sta fischiando da poco fa a casa? Provate ad andare sul 10 in FM, pare che vi sia le case, un coso di bacciori, tutti quanti in case bruscenti, ma questo richiamo io, questo fischio, l'ho già sentito da qualche parte. Proviamo, vai. Dove volete andare? Io già non mi muovo. Lo senti tu, Virpa? Io sento già, ma non ho voglia di essere il tipo del routine, ove. Cazzo, che gente strana che si trova a questo mondo, cazzo, bubu. E ma com'è dite, cazzo, che prima la gente, cazzo, malata era nei manicomi. Mi pare che sei più gente di grazia da ora, cazzo, che trenti. Infatti. E poi esiste più pura che trento. Ah, pure le macchine ti ha chiesto, è già vero già. Oh, Giulia. Giuseppe, c'è una macchina da Tarrogna. Non riesce a poco, poco di gente che attende. E infatti, è quello che ho sempre detto anch'io, però non riesco a capire, cioè, con tante cose belle che si possono fare durante la giornata, è anche una giornata gradevole, per chi non sa che cosa fare. Sei dei chicchi di graziato senza macchina, oppure addirittura con la moto, vai e fatti una passeggiata, ti muovi a cabassone in chili, gatto, magari gatto che non ti rossecchia, gatto che sul gabbo manco, che pizzi buchi in alta ripaddi. La roccia sola, ma così che a poco. Oh, Giulia, la merce che è una cosa che non si crede, guarda. Molto arrivo. Io qua è Santiago 910, 920. E Giuseppe, come quanto ti arriva? 9.10 qui, 9.10, però è voce giovane questa, non è voce di gente di una certa età. No, infatti confermo quello che hai detto, è voce di ragazzo uccello, diciamo noi, ragazzo uccello. Cappa. Quindi anche se la bassa i livelli delle watt dell'apparato per non far riconoscere il segnale, è ragazzo, vai, inutile che siamo lì a girarci intorno noi, così come ieri quei russi non erano di quella persona là, sono pronto cazzo a giocarmi, mi ci gioco il battesimo. Ma c'è sempre ma vicino, il ma. Pompogno, si è sentito? No, Pompogno sono da un paio di giorni che non lo sento, qualche. Proviamo a invocarlo. Chi chissà che non ne venga più fuori. No, perché io sono attaccato al suo QTH, ma nada de nada, nulla, tutto mutismo e rassegnazione. Cappa, io dovevo salire per prendermi una staffa che mi aveva procurato, infatti stavo aspettando anch'io che balzasse fuori, però niente. Se Giuseppe dovesse salire, guarda che devo salire anch'io, magari ci saremo assieme, che devo portare quell'apparato. Cappa, non ci sta problema, sai che se lui balza fuori è fatta, Ma ascolta, che non sia rimasto più nell'ascensore questi giorni? Quello sto pensando io, Ma tu ci sei salito, tu sei andato sotto il suo QTH, però non hai citofonato. Sì, ho citofonato. È negativa la citofonata. Ciao Gianni Capri 2, salutoni. Giuseppe chiama Gianni Capri 2. Cappa di positivo, buonasera Gianni Capri 2, scusami non mi sono manco accorto del tuo ingresso. Ben trovato, ben sentito qui sul 10 e cordialità come sempre. Avanti vela per Gianni Capri 2, Cappa. Ciao Capri 2, buonasera. Gianni Capri 2 è praticamente invisibile qui nella mia postazione. Io non riuscivo a capire quanti lavoratori, diciamo, dai, adesso niente, non riesco proprio a sentirlo. Cappa, ti ha fatto i complimenti per la radio, ha detto che c'è una buona radio. E io Capri 2, come ti arrivo quelle coordinate? Cambio. Alla grande. Niente, riprende Giuseppe per Gianni, Capri 2. e cosa posso riprendere? Gianni nel mio QRM non riesce a passare. Assolutamente no. Ho provato anche a attaccare l'altro apparato con la speranza, diciamo, di poterlo tirare fuori, ma niente. Il QRM che ho lo copre alla grande, quindi mi scuso con lui e non so che dire. Riprendi tu Pierpa e niente, vedete voi se riuscite, se riuscite a tirarlo fuori, discutete voi. Io per me sono un sento solo il QRM, dai. Forse perché lì c'è troppo a scavalcare da quella parte lì, però avanti io c'ho tutta la città davanti, Hai copiato il 6? Sì, l'ho copiato, ma credevo che stesse parlando adesso Gianni Capri 2, non sono intervenuto. Niente, io ti ripeto, ieri lo sentivo abbastanza bene, cioè riuscivo bene o male a capirlo, adesso niente, proprio una cosa che non si crede. E come segnale mi arriva abbastanza bene, perché mi pare sia intorno ai 6-7, però di radio è praticamente niente. Gianni Capri 2, vedi la radio che avevi ieri? stelle ci sono comunque. Capa di positivo, però se angolo buio si può chiamare la mia, cioè io dico questo, se Gianni Capri 2 riesce a tirarmi fuori a me abbastanza bene, come mi ha confermato Panchetto, non vedo il motivo per cui Gianni Capri 2 qui nella mia postazione non possa arrivare come dico io. Thank you. Allora, quella radio si sente amplificata, logicamente qua la perdi la radio, sì, perché c'hai un segnale di 4, però la radio è 4 lo stesso, che va bene, si sente l'amplificazione. Evidentemente l'altro il segnale, c'è un Santiago di 8, ma evidentemente si disperde la modulazione. No, ma succedono queste cose, dai, non è un fattore che può succedere. Quando salirà l'antenna magari migliora al 100%, dai, perché a dire che non sia amplificata la radio non è esattamente così. Perché io l'amplificazione la sento, e c'è, la radio c'è, diciamo, però logicamente ha messo la marcia un po', perché il segnale è di 4. Se avessi avuto un segnale di 8, allora sarebbe stata perfetta 5. Giuseppe. Vai sul 41 qualche. Sul 41? Scappa. Scappa. Thank you. fatto un paio di minuti, sono in cucina. Riprendete voi, appena rientro vi faccio sentire io. Pierpa, scusatemi un secondo. Mio cognato poco fa, quello che sta a loro, il poliziotto, per, sai, la solita telefonata di coso per sapere come va, come non va, tutto bene, bimbi, bimbo, un baico, no? E vi ho abbandonato 2 minuti. Ma l'ho lasciato qui a coso, a palchetto. Mi sembra che se ne sia andato, adesso non mi voglio sbagliare, ma ho sentito una cosa del genere. Cava cava, va bene. Allora, ciao Panchetti, ci risentiamo alle prossime. Chiudendo? E chi? Ciao Panchetti, alle prossime. Buonasera Falchetto, ben sentito e ben ritrovato. E da questa parte Giuseppe da Sassari, non so se mi ha avuto mai il piacere di parlare con me, Kappa. Kappa? Ma come stai parlando, avvocato? E con Falchetto. Sono io Falchetto. E Kappa, infatti non mi rispondevi, ho detto Falchetto è andato via e adesso lo saluto. No, negativo, sono andato un po' in cucina, niente, tutto qua. Ma ti volevo dire, Falchè, ma stasera già sei dei mostri? Penso di sì. E io direi K di positivo, Falchè, è il caso di farci questa stasera, perché ci facciamo la pizzetta in compagnia, dai, se Dio vuole c'è anche il buon Vela, il buon Bombolo, il buon Giuseppe, il buon Falchetto e il buon Doppio Rume. Volevo chiedere, ma Capri 2, che cosa ne pensa? Io, mannaggia, non lo sento. Senti un pochino più Falchetto che riesci a tirarlo fuori. Capri 2. Stavamo aspettando a braccia aperte ieri, quando... Ma che poi, perché già c'eri anche tu ieri sera, l'organizzata è stata così, mi è stata più che altro improvvisata. Dimmi a Gianni che gli impegni glieli facciamo passare noi, scusate un secondo. Niente, mi dice che si era dimenticato l'impegno con io faccio finta, Gianni Capriduro, di essere il tuo commercialista, e dice avevo un impegno alle 9 di stasera con il mio commercialista. Ma che fammi una tramite, fai la cortesia. Hai copiato Capriduro? Io ho copiato, ma non me lo puoi andare, ripeto. Ha mangiato la pizza, Sì, ma dove, in quale punto? Ah, cappa. Ha detto in quale punto dobbiamo andare a mangiare la pizza, Giuseppe? Sicuramente il luogo di destinazione sarà Porto Torres, cappa, nella pizzeria più bella della nostra zona. E tu fai che c'è di stato lì, vero? Ah, negativo. Cappa, guarda, se vedi quella storia lì, si spende il giusto, dai, diciamo, tanto per una pizza, non è con cosa vuoi spendere, non è che spendi 50 euro, no, 50 euro te ne avanzano per fumare una settimana, per dire, no, per chi fuma, però si mangia bene, si sta bene, e poi io pizza così buona, no, io ti ripeto, in 18 anni che ho detto, anzi, ho 19, lo devo compiere questo mese, non ho mai mangiato pizza così buona. Capri 2, Porto Torres. Ok, va di fronte a Piazza Garibaldi, dille. Di fronte a Piazza? Garibaldi? Ha detto sì, di fronte a Piazza Garibaldi. Capri 2, qui sono riuscito a tirarti fuori, negativo al massimo, è vicino alla, diciamo, alla chiesa di San Gavino, però quella che rimane interna a Porto Torres, non quella che dà sul mare. Capri, ti sento a sbalzi, mannaggia. Se avessi avuto la radio come hai con gli sprizzi di Santiago a 9:10, guarda, mi avresti fatto tremare le pareti qui a casa. Non lo so, ma dire, non lo so, ma che cavolo è successo io. Non lo so, perché... sai Gianni, hai dei momenti tu che quando apri la portante e diciamo non ti sento chiaro chiaro, però ti sento, però poi man mano che parli la voce va andando piano piano scomparendo nelle QRM, però come vai a primo acchito di portante io ti capisco. Ok dai, ma che io non so se stia parlando ancora Gianni, perché qui ormai non lo sento più, direi di far entrare Antonio che è in parcheggio da un po', dai, non mi sembra giusto, e poi Antonio stesso se rientrato rilancerà la vela. Avanti Antonio per Falchetto, Giuseppe e Gianni Capri 2, K. Riprendi tu, Aldo, che devi fermo da un po'. Capo, non ci sarà problema. Madonna, sono stanco. Oggi me ne vado. Io sta portando, mannaggia, se fate bravi, Antonio Bombolo, puoi ripetere per gentilezza che io non ho capito niente, scusami. C'è il solito stronzo di turno, dai, non c'è nulla a fare. Capa di positivo, chi riesce a copiarmi, andiamo sulle 45, K. Io non ho capito niente di quello che mi hai detto poco fa, riprenditela tu, dai, tranquillamente, non ci sta problema. Tanto guarda, se non ci fossero stati gli stupidi in questo mondo sarebbe stato anche troppo noioso, come la nostra vita sarebbe stata anche abbastanza noiosa, dai. Comunque lasciamo di queste poche cose, non ci interessa assolutamente. Cappa di positivo, 11 alfa. Sto toccando il livello massimo, Cappa, non c'è problema, 11 alfa per chi mi ascolta, Cappa. Cappa. Io ci sono. Io ci sono. Io ci sono. Gianni. Attenzione sull'11 alfa, K. Ti chiamo? Io ci sono già da un po'. Comunque stiamo toccando livelli un pochettino alti. K di positivo. Chi riesce ad andare su 45? Appena io ho detto andiamo sull'11 alfa, io sono rimasto un altro pochino lì, no? Perché a me piace anche ascoltare e cercare. C'è stato un brecco. Un brecco. E chi è che sapeva che noi eravamo sul 45? Punto di domanda. Ma non penso che quella persona lì che stai dicendo tu si metta a giocare, tranquillo, al 100%. Anto, la portante qui era 9.40, Lasciamo lavorare, dai. Cappa di positivo, Falchetto, tu ci sei? Ma ci sono. Gianni Capri 2 c'è? Gianni Capri 2 ci sei? Negativo. Ma Gianni Capri 2 ce l'ha l'alfa? No, non lo so. Cazzo, bisogna andare. Fai che tu che lo senti, vedi un pochino se riesci a recuperarlo, fai la cortesia. Anto. Avanti Antonio. Anto, mi senti? C'è proprio sul 45, c'è. Cappa, andiamo sul 45. Di qui si ha, però niente. Mettiamo forza. Cava, cava. Oh, Iulia, per il divertimento, tutta la linea. posizioni sul 45, K, K. Avanti. Buonasera, hai mai sentito Vela? Qui avevamo il portantista, largo di canna e stretto di vista. Vista. Avevo capito, spero. Ti ascolto, avevo capito. C'è Massimiliano qua, Buonasera Massimiliano Bulldozer, cordialità, saluti e ben sentito da parte di Giuseppe Cappa. Ciao Giuseppe, buonasera, ben ascoltato anche a voi. Meno mentre vi stavo ascoltando, ero fatto in tempo a passare le 11 alfa, visto che non ce li ho, allora sono rimasto qua nel 45, vabbè, se c'era qualcuno, ho fatto una chiamata e mi ha risposto Pierpaolo. Noi abbiamo il fischietto solitario che ci sta tormentando già da un'ora e mezza, abbiamo il portantista, abbiamo quello che rutta a più non posso qui nelle... chi più ne ha più ne metta, Massimiliano, stiamo andando alla grande. Ho capito, ne ho sentito un po' di tutto là. I classici tocchi di classe delle persone che giustamente stanno a disturbare la gente che si fa la chiacchierata, il discorsetto serio, tra virgolette, no? Perché magari parlando di serietà, sono sicuro che sta ascoltando, no? L'orecchione, sicuramente si sente la parola serietà in un discorso serio, sicuramente penserà che stai parlando di roba da mangiare o qualche tazza di vino, no? O qualcosa da bere, che sia qualche liquore nuovo, la serietà. Però sai, io dico questo, che ci si possa divertire così la persona, ma io penso che abbia veramente dei seri problemi. Comunque dai, la chiudo qui, giusto, era per scaricare un pochino di cosa che ho da ieri sera dentro, perché effettivamente dopo che ti passi una giornata, dura giornata di lavoro, cerchi gli amici per farti una chiacchierata così per passarti la mezz'oretta e sentire il grandissimo porco che ne stava cacciando gli occhi ieri, guarda, mi ha dato un fastidio che non ne avete un'idea. Cioè, me ne mettevo la portante e ruttavo. K di positivo. No, io la verità, Giuseppe, sono stato un pochino in ascolto. Volevo entrare, però ho visto che stavate scappando da un canale all'altro e allora ho detto non entro neanche, perché tanto è a fare guerra, capito? Quindi ho visto che la 10 siete spostati al 45, poi dagli 11 alfa e poi siete ritornati qua. E vabbè, cosa devi fare? Purtroppo in frequenza ci sono anche questi qua. Perché dai, detto questo, oltre a te chi c'è, oltre a Radio Vela, che abbiamo ancora, Antonio? K di positivo, Antonio Bombolo e il buon Falchetto. E se non è andato via ci dovrebbe essere anche Capri 2, Massimiliano. Avanti Antonio Bombolo per Bulldozer. Ma saluti Massimiliano. Ma ciao Antonio, ben sentito anche a te, vai. Falchetto, ci sei? Faccio un rosso. Ma penso, aspetta, forse è ancora agli 11, aspettate un attimino. Va. Infatti io ho detto, stanno andando lì, non ci posso andare, ho detto, torneranno qua. E per quello sono rimasto qui, capito, Antonio. Perché poi ho fatto una chiamata e mi ha risposto mio padre. Non ci stanno problemi, Massimiliano. Di qua sono venute. Cavagava, ripeti per qua. Ma sì, così stasera, Lo stavo per dire io, cazzo, se non c'è il segnale, ti sto ascoltando il radio, basta. E io sempre uguale sono per qua. Cazzo bassino, mi hai fatto consumare la rotella cercandoti di noi che busci. Siamo che cerca busci, posso cerca mie. Io ti ascolto, 9:15 si ti ascolto qua, dai. Ti ascolto bene, Massimiliano. Non lo so. Forse per la... c'è negativo per la parte sua. Ogni tanto si mette questo muro tra di noi, io lo ascolto senza segnale, sono di radio addirittura. E io dovrei fare. Vabbè, purtroppo. È così. Avanti, Filchetto. Beh, Massimiliano, è tanto desiderata. Cosa si dice di bello? Che cosa si dice? Noi qua faccio due chiacchierine per gli amici e me le rifare. E K di Roccia. Ripetitela Giuseppe. K di positivo, l'amico Massimiliano 9:30 pieno qui nella posizione di Giuseppe. K. No, ogni tanto Giuseppe a me perdono si mette questo disturbo e non ci fa rifare le radio, capito? Già che Pierpaolo è in una posizione un po' strana per me, figurati quando si mette questo disturbo non ascolto quasi per niente, solo di radio senza segnale. K di positivo, non sarà per caso quel disturbo famoso di qualche settimana fa, no? Cosa ne so, potrebbe anche essere, Giuseppe, potrebbe anche essere quello, perché ha fatto un passaggio, è proprio segnale, non mi muove neanche là, ho capito, l'ascolto di radio, basta. K di positivo, vediamo un poco se c'è il buon vela, avanti. K, questo passaggio 9:30, dai, riprendi Antonio Bombo, vai. K. Adesso come mi ascolti nel 45 o Giuseppe? Ti ascolto esattamente 9:20, bello, pulito, radio è stupenda. E io Giuseppe? 9:35 Falchetto. E radio diciamo che va bene, la radio è 5, bella, chiara. K. Anche qua Falchetto arriva più di te, Anto. Chi è in questo canale? Ah, qui sei Santiago 7, sì, tu. E Falchetto Santiago 8. Ma secondo me è proprio il canale. Sarà che il canale, non lo so. Però Falchetto la cosa ha fatto una scacciavittata, non lo ascolto molto bene. K. Ehi, va bene, dai. Ok, ottimo, ottimo direi, segnale buono e radio buona. Dai, però io vi ascolto tutti bene, iniziando da te e finendo da Massimiliano, compreso Bombolo e Coso e l'amico Falchetto, belli chiari come sempre. Capo e Rogero, no, ma era solo Massimiliano che dice che non mi ascoltava. Già c'è la segnale, adesso già c'è. Per forza c'è adesso, già ti grido. Io vado sempre uguale, capito? Sempre lì sono. Vicino ai piedi ce l'ho accesa. Beh, da punto zero a punto quartiere, tutto. Già ce ne passa la differenza, dai. In distanza già si nota. Anche la radio si nota, la voglia. E a me ogni tanto ci mette questo disturbo tra di noi, per favore, vuoi dire che mi... Mi sa che non è una voce a crepare come... 2, 5, 0, punto. Attenzione. 2, 5, 0. E sono io, a me. E a Fottettini. Abbasciano le freghette da Fottettini. Piega le ali, no, se fate per fare un falchetto le ali, troppe. Su che vogliamo, vediamo un pochino la radio del buon Giuseppe, come sta andando, cambio? Troppo bella. Ascolti la distanza. Non posso arrivare la radio, come è sollevatasi, aspetta che qua diamo un'altra. Aspetta, cazzo, ribellato a me ti stai. Abbassi un po' così per il soglio. E no, era per vedere se si sollevava un pochettino anche il radio. Cambia. Ha voglia che si solleva la radio. Se ne fa in bocca, va. Di Roger, vuol dire che sta andando tutto bene. Gava gava, voglia. E non che si è arricciata, vinta l'antenna del Rosmetro, quella. Ma che Giuseppe già sta andando bene adesso, Giuseppe, non fai in presenza, eh? Assolutamente no, caro. Io ti faccio venire qui nella mia modestissima stazione e sono liscio come l'olio. Addirittura ho un alimentatore da quant'era per Paolo? Da 7? Da 9 o per... No, veramente Massimiliano, liscio, sono solo con l'apparato e via, se no te l'avrei detto tranquillamente. Ma il 9 quello? Ma ce l'ha portata. E allora? Non cretino, Cazzo lo fa. Però questo è... Oh, Jacket. Stigo. Giocare... Vai, ti tirate dentro il tombino, vai. Giuseppe, come dico a Tampio? Mischino. Di cosa, di divertimento per lui nella vita, povero imbecille. Solo quello ti è rimasto, non hai più niente, solo quello. Ma come Giuseppe, ma c'è cos'è che mi fa più ridere? E noi che l'abbiamo fatto innervosire, che è diventato il dito con l'Alzheimer al ragazzo. Senti che attacchi di Alzheimer che gli prendono al ragazzo quando lo tocchi appena appena, che sai che il suo dito non ti rimanga così da oggi sino a canto campi, cappa di positivo. Su che andiamo, su! Su che andiamo, su che andiamo! piccola portante, a me manco rubello di rumburo mi si cochi. Vai, succhia! Fate una portantina così, cazzo, una ma cosa cazzo è alimentata che c'ha portante, cazzo? A dinamo di bicicletta? Ma che non te ne vai un punto di vagogna, cazzo? Io manco la sento qui, io vi sento tutti benissimo, passate tutti alla grande qui nella mia postazione, cazzo! Cappa che positivo, cappa che positivo! Ah, mi senti Giuseppe? Forte chiasso, forte chiasso, cosa hai combinato tu che sei salito a 9.35, brutto birichino? Anch'io mi faccio sentire. Ma se gli do appena appena un cucchiaino di rosso al mio birichino, a rosè come un'attacca corrica, se fin fa gas in orbita parte il mio segnale. Assale. Mica lo passi, che lo passi, lo passi. Allo passo, vai, bulldozer, non farci caso mia, che non vi lo trabigliamo così quando state lì che vi arrompizzi. Avanti, Massimilia. Ma quello bello mi tocca, a me, voglio me la fuscia. Aspettate, mi squilla. Cappa di Rosmetro, avanti vela, avanti vela, lo schiacciavi come una mosca quella portantina, cappa. Bella da... E cos'è l'ultimo respiro quello? Cappa, mi è arrivato un alito di aria fresca qui dalla finestra. Comunque, passi lo stesso, è donaggio di bontà. Vi sento forte e chiaro tutti quanti. Ci vuole questo, ci vuole, così almeno ci si diverte un po', dai. Cappa di positivo, due risate bisogna farsene ogni tanto, dai. Però quello che mi dispiace è schiacciarmi uno di voi, manco uno. Fai che? Tu cazzo non passi, cazzo come in un coso, come che quando stai attraversando cazzo la strada. Liscio, bello, tranquillo. Cazzo te tu sei ammattanente, zicchendi cazzo, ti ammattanassi cazzo rubulo da poi fa cosa. Dai, riprenditela, fai che? Forte chiaro qui, cazzo, 9.40, cappa. Positivo, positivo. L'amico lì ha poco di giocare qua, c'ha poco da giocare perché qua se ci scaldiamo col rosso poi ha poco da schiacciarsi le ossa, Riprendi Giuseppe alla grande, cambio. Cappa di positivo, giusto una comunicazione interna, arruasso, Positivo alla grande, positivo alla grande, lo passi, Cappa di positivo, bombolo, fai un passaggio per vedere se schiacci l'insetto, cioè se schiacci l'amico, cappa, cappa. Vai bombolo che stai andando alla grande, avanti vela, non ci colca manco il pelo, su che andiamo ragazzi. Sto leggendo una cosa a Massimiliano. Massimiliano, quanto ti è arrivata la portante di a te? Una delle due, dai. Una era 9.10. E l'altra? E l'altra era 9. Bene, bene. Bene, bene, bene, bene, bene. Qua non arrivava neanche... Mi arrivava giusto la prima braghetta, Cappa di positivo, infatti ho confermato che tutti li schiacciate alla grande. E niente, dai, sono i classici cipito, dai, non c'è da preoccuparsi più di tanto. E quando va l'altro colpo di portante, vela, fatela risollevare la metà di braghetta, cappa, cappa. Lasciamo di giocare, perché tanto adesso il discorso è basato tutto su di lui, no? E lui ci sta godendo questa cosa, quindi lasciamolo fare. Padre Mario, deve fare almeno quello, così almeno le usa, altro non si può fare. Cappa di dai, dai. Ogni tanto qualche giorno ci vuole per farci divertire, dai, almeno staccare un pochino dalla solita, dal solito tram tram. E ci vogliono, dai, ci vuole proprio la classica ciliegina sulla torta questa, perché sai, i giolli li usavano per far divertire la gente e noi siamo qui, dai, il sorriso glielo facciamo, ci ha fatto divertire, più che altro un pochino di pena, casa che tutti quanti l'avete cazzicato, cazzo, cazzo. È cappa di oggi. E noi siamo contenti da parte sua, ci ha pulito un po' la frequenza a tutti e già va bene così, dai. Ma che si dice il QRM? Sì, vabbè, il QRM lo sapevo, però non volevo scendere ai preliminari, dai. Va bene così. Riprendi Massimiliano. Per tempo si spera. Ciao ragazzi, ma con la forchetta lo stai bevendo? Sempre con la forchetta. Ciao ragazzi, e allora lasciamelo qua a me che porto il colabrodo. Ah, ma che positivo. Io porto la cannuccia, a me mi ha detto di non toccarlo manco con le labbra. Già va bene, dai, riprendi Giuseppe e fai girare alla grande. Di positivo e di rosmetro, mannaggia chissà cosa che non posso dire, che non so cosa ci mi sono vicini all'ascolto. E dicevo, stava per mancarmi quasi quasi lo stimolo per l'appetito di stanotte, mi fa che. Ah, brava, brava. Adesso ce l'ha fatto venire. Cappa. Oh, non ti piglia freddo tu mio, fai che? Non prenderti impegni, chiunque telefoni e dimmi che sei impegnato per stasera. Ah, pare positivo, a che ora si va? Ma non lo so, adesso dobbiamo sistemare un pochino tutto l'apparato, dai, perché poi io dovrò andare a prendere a Carmelino anche Vera e Antonio Romolo. Riesca a camminare e dopo di quello dobbiamo sentire il gol e dobbiamo rurre. Cappa, cappa, fatemi sapere. Avanti. Su che si rullano? Gianni, fammi sapere a che ora. Gianni, mi Giuseppe. Campani positivo. E Gianni è uscito poco fa e dice vengo subito, vengo subito, vengo subito, però io sto sempre aspettando qui, aspettando Gianni con la speranza che rientri. Dov'è la sentito? No, negativo. Andiamo bene. Dai, comunque c'è tempo da qui a stasera, dai, tanto se andiamo non è che andiamo alle 7. E a che ora? Sì, alle 4. Questo non è Natalino, non è Natalino. vulcanici, come intendi? Dalle risate. Non è così, no. Non è così. via, via. Lo so Pierpa, però vedrai che tra una risata e l'altra la cosa magari che ti farebbe più male è quando trovi il pezzo del coso, del granchietto, che non è cotto bene. Nella serie Pierpa bucia il tutto lì. Toro, ma la buccia che vale? Eia, la buccia, li portano con la buccia. Ma se venga, io che a me, lascia voi che mi sono portato, ma secondo me mi ha rifottito, eh. A me mi soffre del massa la fame. Sai una cosa, perché siccome era la corsara, no? E ci sono le cose, i granchietti, tutte cose, io questa pizza quando me l'hanno portata, io ho preso semplicemente, l'ho arrotolata e ho mangiato. Io mi sono detto lì credo che acaba la buccia. Allora, ti sei pensato quello della buccia? Cosa cavolo ne so quello, eh? Io non mi avevo detto che mi sognavo a cavare la buccia. Ah, dimmi del cameriere. Il cameriere è quello che si chiama Figuri, Madonna, era il peso di Figuri che mi ha fatto male. E che gli ha detto che andavano, forse andavano cotte un po' di più, perché non può essere. Cosa, bro? Le cose, i granchi. Mai dato mai. Poi è andato e ha controllato la tre volta, poi l'ha compresa là. La cosa era controllata sotto la tavolino. E se lei che si fa da poi la testa della buccia. Andiamo. Però vabbè, a me già non mi fa. Non mi attizza più di tanto. Che cosa? La zuppetta. E oltre alla zuppetta, la pizza, tutte queste cose, ne siamo nel mezzo. Ma io cosa ne so, a me mi ha detto, guarda, che poi io, come faccio io subito, ho arrotolato la pizza, ho iniziato a masticare, e la verità era dura, non era cotta bene. E invece poi adesso Giuseppe mi ha detto, dice, guarda che cosa è, dove togliere la buccia, mi. E io ho detto, perché si toglie la buccia? E io gli dici, sì, e cappa di positivo, una volta che l'ha rotolata, cappa come sa da rossigappa lì, pizza con patatine e pai, ma lo sai come ti scrocchiava? I granchietti, quelli sono cacciati, ma i granchietti ho arrotolato e basta, bro. Ho masticato, quello che c'era. Oh, Pietra. Però stasera, se andiamo i granchietti da una parte, che quelli ci servono per pescare. Ma non ne so io i granchietti, io non ne so me. Che bellini che sono, date, sono minoretti però si presentano bene lì su me. Ma che? Anche tu se lo trovi il granchietto, metti da parte subito in tasca anche se è pieno di sugo, che poi lo usiamo per pescare. Cappa, no, quello dove lascio, tanto i granchietti non mi piacciono a me. Cappa di positivo, io faccio già un paio di parature qui prima di uscire di casa e dopodiché facciamo uscendo da lì e buttando le canne in acqua. Capparoccio. Pierpaolo! Buon Massimiliano, e poi pochi fa mi hanno invitato a montare a mangiare, non lo sai cosa mi è successo? Lo so. Alla fine poi hanno portato le ostriche, no? E ho chiamato il cameriere e gli ho detto che guarda che sono un po' dure queste cose. Mi ha mai dato, dice, scusi, ma cosa ho mangiato? La buccia. E dice, perché la buccia già hanno le ostriche. E ho detto, beh, certo. E ho detto, guarda, vanno veramente un po' dure. Ma le ostriche si mangiano crude o no? Cosa ne so che se ne includo, oddio, io la ci ho masticata, erano croccati al massimo, boh, dure, e non mi sono piaciute. Ma che a me mi piace, sono quello bene, mi piace a me. Un attimo di bianco. E tu gli asci allora quello bianco, la puoi sempre lui, io, Dio, mi sa che me ne entro un pochettino dentro, facciamo qualcosa, va? Ma vado un po' a DC che mi sto finendo qualcosa delle bolle che stai facendo anche tu. passato, Confermerai che vado a fare commissione. Cosa fai? Mi è passato. Sì, ti ho passato, Ma perché? A che livello sei? Non è niente, così che ti ho passato, ti ho superato. Ah, non era fine, sei solo dentro la caverna io. Vabbè, ma io c'ero in attesa lì ancora, però nelle prime cose ti ho superato, dici? Oh no, non l'ho guardato, poveretta. Però ti dico che quando entri dentro una caverna è un po' difficile. Massimiliano, sarà difficile per me adesso riprendere quella roba lì. Per un po' di tempo forse le braccia non le posso usare molto, Cosa? Oggi mi è capitato un incidente sul lavoro. Davvero? Perché? Che cosa è successo? Mi è scesa una catasta di bomba addosso. Ah, e quindi? E quindi sono uscito poco fa all'ospedale. E cosa ti hanno detto? Niente, devo fare un tele accertamento, sono tutto pestato. Cazzo di avvivoria, mamma. Tutto pestato, sono anche la schiena, tutto gambe. Ma una cattata di canti si deve vedere, dentro 4 o una cattata blu? Ah, io non ho contato, dico che erano 30-40 bombe. Ma dopo che ci siamo sentiti l'altra mattina? Capa. Hanno rotto i sostegni che c'erano. Ho buttato giù il muro tra le macchine. Buttato giù il muro? Hanno buttato come hanno spinto contro il muro. La cattata, ho buttato giù un muro e le tue macchine. E mezzo veni tu? A me mi ha dato bene, mi ha stretto contro il muro. E sono riuscito a buttarmi da una parte, però le ho prese un bel po', Per tirarmi fuori devo intervenire la drone e vigile del fuoco. Addirittura? Perché ha dovuto sollevare una parete in terra perché c'era l'altra parte della catasta che si poteva rovesciare. Sono andato a vedere allora. Hanno dovuto mettere le braghe, tenere tutto il sostegno e poi sono uscito. Sono allucinato. E quindi sei immobile, diciamo, là, tutto bucciato, no? A letto, là? Già mi muovo, ma sono tutto presto. La schiena e le gambe. Vabbè, grazie a molla. Vabbè. Già ci voleva, per iniziare bene il mese e l'anno. Ti do il fratello. Veramente sì, che lo sai che mi sembra io i fratelli. Lucinante, no, non sapevo niente, no. Beh, perché non mi hai chiamato, sarei salito. Mi sa che non avevo manco il pensiero di chiamare nessuno, Vabbè, non so, quando serve una mano. Vabbè, abbiamo passato anche questa, un po' di dolori, sono tutto canto, mamma mia. Ora mi sento brutto a toccare il cazzo. Come non ti ha pigliato la faccia o il capo e l'usi? No, mi ha preso, diciamo, tra la spalla e il collo, una mi sono imparato la testa alla faccia. Mi ha preso al gomito, mi fa male anche il gomito. Ma tu eri sotto vicino al camion, quindi? No, è una catasta di poco, è dentro un altro deposito, chiamiamo. Una catasta ci saranno poco. Adesso non me lo ricordo quanto sono, ma saranno 150 più comodi. Allucinante. Catasta fatta con cura, tipo piramide, lì. Sì, ho capito. Vabbè, tu sei andato a prendere uno e lo fate anche, Lucia? No, io sono andato dentro a portare due bomboloni. E quando sono entrato ero alla parte del muro. Come sono entrato ho sentito il track, si sono rovesciate le prime due. Mi sono guidato e ho detto che secondo me erano le buone. Invece poi un botto, boom, si è sbagliato tutto. Allucinante. E Antonio non c'era lì? Antonio già era lì, ma era a distanza, era dall'altra parte. nuvola blu. Bisogna imbragare, capito? Perché c'è la pecca come cascasse all'altra parte, c'è dove ero io, c'è un muro che è alto 3,50 metri, mi stava spingendo contro lì e rischiava di cadermi addosso. Va bene, riprendi tu, dai, che ci è arrivato oltre mezzo? 10, dai. E quello è, fai conto che magari lì dietro c'era lui, e tanto mi aveva fatto un muro, e lui l'aveva schicciato. E cappa, ecco perché dico, oh, è andata bene, dai, è andata bene, mannaggia, e certo non ci voleva, perché sono cose sempre che in una maniera o nell'altra ti segnano, sia di dolore che di tutto quanto, però poterla raccontare, guarda, è già una grande cosa. Grazie all'oggetto, dai, ok ragazzi, dai, io chiudo. Ci sentiamo, che mi sta chiamando mia moglie, eh. Ci sentiamo più tardi, se coincide, se no buon divertimento per stanotte, ce la riassentiamo quando coincide, dai, ciao, io passo un QRT. K di positivo, oh, Massimiliano, buon QRT e niente, dai, quando coincide ce la sentiamo sempre con piacere. E avanti qualche. K, buon 144, Massimiliano, ce la riassortiamo appena coincide, dai. Saluto da te e QRA familiari, avanti Pierpaolo. Ciao Massimiliano, ciao, buon proseguimento di serata, dai. Se coincide ce la riassortiamo anche più tardi, dai. Di Rosmetro, doppio room, vieni fuori per cortesia. Manco per sogno. Hai detto proprio la parola giusta, sogno. Quanto tempo sprecato, guarda, quando si dorme. Io molte volte quando mi devo coricare dico, ma tutto questo tempo che ti sono ancora appendicato quando c'è in chivi, a dormire, o fa il che. Infatti. Meglio essere sempre svegli, attenti, vigili, occhio. Ma K e K Rogero. Succhia, andiamo. Così è, carissimo Giuseppe, purtroppo è così. Capa di positivo, ma anche per sapere come devo muovere io stasera, mi hai capito, Falchi? Perché se non riusciamo a organizzare niente, Giuseppe si muove diversamente, e se devo uscire esco, e se devo mangiare mangio, se devo fare qualcosa, è inutile che io poi, magari se il buon Gianni mi stesse ascoltando in questo momento, se può entrare, e mi dicesse, non si fa niente, ok, e mi organizzo, hai capito? Positivo, infatti. Non ce l'hai, perché non sei fuori da telefonare. Lui lo sai che non entra a quest'ora, No. Oh, lascia perdere. Vado e gli metto lo stuzzicadenti nel campanello del citofono. E fai così. Cattivo io. Oggi, qui c'è un tubetto di acqua, che qua fai prima. Cappa per papà, con l'atta che attacchiamo tutto. No, mi ci mettiamo, però picchiamo una bomba alla regia e la facciamo sbagliare subito. Come per fare? Non ti ho capito. Per svegliarlo bene, se no ci mettiamo e qua gli fabbrichiamo una bomba alla regia, vedi, si sveglia. A parola, con quella svegliamo tutto il vicinato. Prima almeno si sveglia, capito, se no... Lui a quest'ora dorme, ma non sai anche che dorme, dorme in tutti. Io ti ripeto, Pierpaolo, posso alzarmi alle 4 di mattina, tutto quello che vuoi, ma non chiedermi di dormire dopo pranzo perché sono un uomo morto. Vabbè, non si è tutti così però, K di positivo, amico Pierpaolo. K di positivo, chi più e chi meno, se fossimo stati tutti uguali, Pierpa, come diceva qualcuno, saremmo stati in un mondo di automi o come cavolo li chiamavano, tipo i robot. Tutti quanti precisi. C'era uno quando lavoravo fuori in stanza con me. Se dovevo svegliarmi, era faceva da 3 giorni dormito, quando non ritornavamo a casa. Si colcava il venerdì notte, c'era che si svegliava il lunedì mattina alle 7, se ne lo svegliavi. Ah, hai compreso qualche? Sono pesante, cata. Cazzo, ma lo vedi che da poi si scendava? Perché non mi avete svegliato ieri? C'ho fame adesso, c'ho lo stomaco in bocca. E mangiati tu. Che è proprio vero mi hai detto, che il papà. Che chi dorme non prende pesci. Cazzo, ma qua, non sto scherzando, è un tiro venerdì sera. Non eravamo andati a casa e siamo usciti il venerdì sera con altri due, siamo usciti, siamo andati lungo la pepe, ho mangiato una pizza, poi siamo andati dall'altra parte a berci una cosa, siamo ritornati, lui l'ha addormentato, siamo ritornati però erano le 3 del mattino. E Giuseppe Romeni, noi la domenica e il sabato siamo andati a pranzo e lui si è addormentato. E mi ha svegliato quest'altro amico la domenica mattina. E non ti alzi tu a mangiare, ma hai mangiato ieri ancora. A che giorno è oggi? Domenica? E perché non mi avete svegliato ieri? E tu dovevamo uscire per mangiare qualcosa. Dite, ma che non te ne pensi? E te ne vai le cose, scusa, eh. A te non mi avevo già del patrimonio, te dovevamo uscire da noi, te dovevamo uscire da noi. Perché... Beh, sono fatti i mercati, se anche ho preso questo qua perché non l'avevo svegliato. Ehi, allora già ne aveva mangiato se fosse stato per me. Ognuno deve pensare a santo suo, mi pierpa. No, io, cioè, da che era così allora, io gli ho fatto anche un paio di volte, il lunedì mattina non lo svegliavo. E quando andavo a lavorare che il non lo trovava, l'ha detto, andava a cittadino, ogni volta. Guarda, io ti posso dire una cosa. Ho un collega di lavoro che a volte capitano parlando, io lo devo guardare in faccia per essere sicuro che sto parlando con lui. Diverse volte è capitato, no? Di doverti girare, sai, continuare il discorso, e se fa vedere la sola, a chi è detto che dormiti? Per carità, io ho capito che uno possa essere stanco, ma di dormire così, mamma mia, io non dormo poco, ma dormo poco per cause mie, per dolori miei e cose così, ma dormire così tanto non ci sono mai riuscito, cazzo io mi dormito, No, ma manco io così, Pierpa. Io faccio, come saprete, anche la levataccia, mi alzo alle 3, alle 4 la mattina, però poi non riesco a dormire tanto presto, perché 9:30, ore 10 posso andare a quelle camere, però fate il conto, dalle 4 di mattina alle 9 di sera, quante ore sono? Ma io per esempio ogni tanto faccio ancora, faccio il servizio di ambulanza, ma prima ne facevo di più, E diciamo finivo anche a mezzanotte alla 1 andavo a dormire la mattina e sì, sempre al lavoro puntuale, a terra. Ebbene, per forza di cosa bisogna farle con le cose lì, perché il dovere per il lavoro è la cosa prioritaria. Anch'io ho fatto notti bravi, ho fatto tutto quello che vuoi, però le domani mattina lavoro sempre puntuale, mai una volta che sei arrivato con un minuto di ritardo. Ma io non mi ci immaginerei a me dormito, quando io ci pensavo a quei 2 giorni addormentati. Ma io dico questo qua, ma è possibile che il corpo, tanto che io durante la notte mi alzo più volte per andare in bagno, che il corpo non richieda niente. guai, non ti creerai mai, perché boh, io non riesco a passare tante ore così. Poi, Pierpa, a manco io se per quello, ma stiamo scherzando. Nella serie qualche chi tu imparava a farmi, uno che non ha manco bisogni fisiologici in due giorni e qualcosa, cioè qualcosa di strano c'è. Beh, in effetti qualcosa di strano c'è. Perché qua molte volte me ne sveglio la mattina presto, mi se non me ne butto giù dal letto, capo, mi piscio sotto. Oh, cos'è? E poi c'è anche un'altra cosa che dimenticavo, Dimmi, Pierpa. Questo qua che ti sto dicendo, luglio o agosto, qualsiasi mese, non parliamo dei mesi invernali. Ma nei mesi estivi, luglio e agosto, due coperte? E minora buona, gaffa. Pensava via, Ghiccio, da che curia mare innanzi. No, beh, ma quelli ne conosco anche altri, Ne conosco anche altri. Micio, io te lo fai dire da Gianni, io lo conosco anche Gianni. Agosto, luglio, quello che vuoi, due coperte. Quando ci troviamo con Gianni te lo faccio dire perché uno glielo conosce anche Gianni. Ciclo, qualsiasi mesi, da lui, due commessi, allucinante, roba che ti faceva sudare. Soltanto guardando. Capa, ci posso credere. Io ad agosto, guarda, già comincio io da giugno, luglio e agosto già, guarda, solo il lenzuolo di sotto mi dà fastidio. Madonna, mamma mia. Se io mi metto una coperta quando c'è caldo così, e domani mandano ma c'è apparecchiato sbagliato, non c'è più Pierpaolo, Capa di positivo, ma che ha tirato fuori la termocoperta a luglio? Oh, ma che dai? Mettiamo la termocoperta a lame rossi, la termocoperta a lame rossi. Sì, guarda, metti qua a me, 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, da ora già me ne ha tirati un'ora, boh, facci lavori, bomba la voglia. Ma, addirittura? Ma il sabato sera non è chiuso? Capo, è chiuso, ma loro chiamano sempre. Ah, ebbene, quello è normale. Bubu, ma che stava chiamando il muro e la consegna la facciamo noi? L'altra notte me lo sono dimenticato. Sono andato via dal negozio e mi sono dimenticato il trasferimento specchiavare. Alle 11, come ricordo, più delle 11 ho chiamato e si riportava la bomba. No, ma la niente fuori di gabbo, capo, vero? Sì, così mi dice anche oggi. Cazzo, ha detto, scusi, ma non mi so che ore sono. Sì, dice, ma mi ha risposto, e beh, il giorno non toglie che sono più delle 11, la bomba la vuole. E io, vabbè, se non può, fa niente, e beh, io gli dico sì, Mezzo di notte, cioè, ma la ieri è uscita di campo, non è possibile. Vabbè, c'è anche questa roba qua, ma vabbè, io mi non sto rispondendo, mi sto divertendo a guardare le chiamate che arrivano, cazzuccia di giurare, ma poi so, no, ecco, uno è l'abitazione, che inizia con 27, quindi è zona nostra. E poi guarda, la spiga delle bombole è sempre che ti manca, o di sabato, o di Natale, o di Pasqua, o di coso, ma è sempre quello il problema delle bombole. Vabbè, però quando è chiuso, non ci si può fare niente. Capa, c'è tanta altra cosa con cui mangiare di sabato e domenica. Uno si può prendere una pizza, si sbatte le corna nella gastronomia, può fare tutto quello che vuole, sia con vita da parenti, se ne ha, se ha la suocera o i suoceri, quello che è. Sì, una volta, un po' di anni fa, ma chiamate sabato sera questa qua che io correvo la bomba, vi faccio questa cortesia e beh mi ci ha convinto e ho detto vabbè guarda io sono anche in dopo. E guarda, ma gli è pigliato i cazzi che mi devo ragionare da Marco. Anche poco erano via due e una era quella di scorta che gli serviva. E non oso dire neanche il cazzo che si è preso Pierpaolo quel giorno. Me lo posso immaginare, figurati se avevo la bombola lì di ricambio, beh, che cosa cacchio volevano da voi? Però mi ha detto dicendo che le bugie che erano finita, ancora come faceva, io ho detto vabbè là, facciamo sapare, ho detto non potrei anche fare, ma comunque la pezzare qua avanti. Ma non l'avessi fatto, mi sono incazzato, mi sono avvelenato per niente. Infatti la mia gente con croce. Io una volta gli era mancata di domenica la bomba, domenica mattina, mi ricorderò sempre quel particolare lì. E una persona mi ha detto, guarda, mettitela in macchina nella bombola vuota e vai su in via Milano, e c'è una appena dopo c'è il ricognitore dell'Agipi, e fai la curva, appena dopo c'è un ingresso sulla destra. E mi ricordo sempre mi aveva aperto quest'uomo anziano lì, ma era un deposito enorme di bombole lì dentro. Capa, quella dell'Agipi era quella. E vabbè Giuseppe, se almeno che non sia un amico che è capitato, ma un amico però gli serve, cosa, allora sì, ma se no la gente che non conoscono più, se ti è successo, sono diverse persone, mi hanno chiamato, se potevo aiutarle, la verità la faccio ben volentieri, ma solo se sono amici, se no no. La gente che mi teme in cuore, mi stanno trattando, niente più contatto. Certo, in orario di lavoro bisogna lavorare, mi Pierpaolo. Sabato e domenica e per tutti, ci mancherebbe altro. Anche se poi, per terminare il discorso, a quel tipo lì, no, gli avevo dato la bombola che avevo io. Cazzo, mi avevo fatto un cazziatore, dice che anche se l'attacco era uguale, no, io l'attacco della bombola di quelli che io ho scritto con la chiave e poi ci fa quella guarnizioncina rotonda, no? E mi aveva detto che la bombola non era la sua perché non ero andato a comprarla e dove l'avevo acquistata, tante di quelle storie lì, cazzo, ho dovuto togliere casa la balla che era una bombola che mi avevano dato, sai, per non pagare il deposito perché avevo acquistato una stufa, tutto lì, cazzo, ma mi aveva letto la quinta al giorno quello. Non lo so perché io sono anni, sarò una decina d'anni oramai che non ci sono più andato, anche perché proprio non mi interessava, cioè avere un rapporto così con una persona, cioè anche se la bombola non è la tua, l'attacco è uguale, ti sto pagando, ma chi ti frega, prendi, metti in mezzo e che si è visto, si è visto. Da voi era sempre un pochino zigarro, gatto, mamma mia. Attimo, mi squilla. Cava, cava. Oggi sei. Io ti ho visto prima. Mi venivano anche a tutte le ore, io mi capavo, poi me lo sono insegnato e te l'ho fatto. Poi che mi hanno fatto anche quel pezzolino, oggi ti parlava. Mi rivolgo al cavallo, nel cavolo. Adesso puramente esclusivo, se qualche amico mi ha dato per volentieri, no, non ci penso su due volte, sono salito anche a prenderla, va bene, ma niente così, cazzo, la puoi ti vado lì, invece come me lo andi. Se ne hai necessità, ne hai necessità, ma se non ne hai necessità non mi devi fare cose così, no. Certo, sono perfettamente d'accordo con te, ci mancherebbe altro, perché oltretutto quella lì anche caponaggine e mancanza di rispetto nei confronti delle persone che stanno lavorando, cavolo, ci mancherebbe altro. Beh, perché io ho fatto ben volentieri, ho detto vabbè dai, c'è necessità, non lasciamo così senza, dai, anche perché insomma se ti tiene un cliente è sempre meglio, però ti arrivano a farti questi pizzi, no, allora non mi sta bene. può fare, si può e basta. Però non ti mandano anche le cose, vabbè, fai cazzare, cioè arrivo lì e poi ce l'hai. Anzi, mi devi pigliare il barocco, allora non hai necessità, mi devi pigliare il barocco. Se non hai una, se non hai due di nuovo, ne hai una, già funziona per diventare lui. E beh certo, cavolo, ci mancherebbe altro. Io addirittura, guarda, ho terminato di comprare bombole da quando ho piazzato le pompe di calore. Tu figurati, adesso io ho qui la stufa, quella che usavamo, quella che è poi nuova, la stufa a gas, quella con le ruote, no? Ci sta la bombola dietro. E ne ho ancora una dentro, e anche se vuota, una bombola da 10 kg. E adesso stavo pensando con Lella, adesso la devo sentire perché adesso come si alza e voglio provare a dirlo di nuovo, se riesco a disfarmene sia di stufa che di bombola. La stufa un pochino mi dispiace perché è praticamente nuova, non c'ha un graffio, è una di quelle buone a tre linee, però se riesco a trovare la persona che sarà per sfruttare gliela do via. Buttarla no perché mi dispiace, perché magari poi la pianti via il cassonetto e se la prende la gente che non ne ha bisogno, mi hai capito? Però sentendo magari o qualcuno che ha bisogno di qualche cosa, e a Casmi, addirittura avevo cambiato anche il tubo da poco, il tubo che va dalla stufa alla bombola. E via, non me la porti proprio nuda, perché no se mi sta portando via solo questo qui a casa. Lo sai quante mi ho regalato io, che me la lavoro se la disfaceva, o dice no, me la portate via. E sai, quando ho le cliente dico, va bene, la porto via. E poi magari mi usciva qualcuno e dice, mi sei questa persona anziana, no, così. E chi se l'è guastata, la spinta che gliela do io, pronto, arricavo. E lei di contenti che pippa, ma gliela vuole qualcosa, niente, non sa, a posto così, già vabbè, poi già regalo. E però soltanto esclusivamente anch'io ho persone così pensionate che hanno poco, se io si dai, non le regalo le qualcosa, quindi le gratisce così. Io ho dato anche una qualche mese fa, cioè vabbè, poi queste sono le persone anziane, vivono in pensione soltanto, le pensioni mie, e se ne sono bastate poverine, stavo chiedendo quanto costavo, la Sicilia ce ne vado io, ne ho una che funziona bene, davvero, poi quando l'ho portata, mi volevo guardare, no, lasci stare, non fa niente. Già, poverini, pagano la bombola, gli anziani, cazzo, che costa un patrimonio adesso la bombola, via. E io le regalo così, molte, anche quando si possono riparare, a queste persone anziane le riparo tutta gratis, perché molte stufe recupero qualche pezzo appunto per queste persone, e lo faccio anche gratis, senza neanche prendere niente, ti puoi immaginare. Sono cose belle quelle, perché ti ripeto, se per appoggiare la mia cassonetta era bigliugata, colpi di picco era borsa a milioni di più, però se per aiutare una persona che ne ha bisogno, pronti, e non ci sta problema, perché tanto sono sicuro che se la lascio lì, l'abbandono lì, nuova com'è, la vedono, stai tranquillo che il povero non ci va per la vergogna a raccogliersela. No, magari non fanno, se, non so se c'è ancora posto per tenerla, magari, o se no, se me la dai, ce la do io a qualcuno che ne ha bisogno. Se non hai posto per tenerla, ce la metti in magazzino, a buttarla se nuova, non è un peccato perché già c'è qualche persona che ne ha bisogno. E capa, figurati che mia moglie adesso come adesso mi mette sempre il coso sopra, no? È una specie di centro tavola, è sempre bella coperta, e certo non ha problema che se l'abbia presa la polvere lì con la stufa. Appunto è un peccato, se funziona è migliorarla. però, Ehi, magari ce la rampi, o la distruggi, oppure ce la piglia come vero che non capisce, che addirittura ce la rivende in culo, Perché tu ricordati una cosa lì per fa, e poi già lo sei meglio di me, che la gente è povera a raccattare niente, non ci va in giro a chinare, e neanche vergogna. Tranquillità e questo e quell'altro, ecco su. Mannaggia, visto, il portantista è arrivato all'appello anche stasera, vai. Non si fa perdere l'occasione, Ti posso dire, Giuseppe? Lo so, dai, potevo starmi zitto, mannaggia, cazzo. Me l'ho tirato solo dentro la bocca, cazzo. Oh, io non ce la faccio a ridere, no. Aspetta, 41 euro. Via. Ascoltiamo magari dalla vettura, dai.